Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato. Inizia Blu Radio Sera del martedì, oggi è il 5 di ottobre del 2010. Non sono da solo, dall'altra parte del vetro c'è Maurizio Calzavara, che saluto. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Un grande ritorno per te, dobbiamo dire. Un grande ritorno per me, visto che sono stato assente 4 mesi per motivi dovuti a pannolini vari. Esattamente. Adesso il bambino cammina, per cui... Sto scherzando, ancora in braccio della mamma, magari ci sta anche ascoltando. Ancora buona serata e grazie per avermi permesso di ritornare in radio ad ascoltare tanta buona musica in diretta, perché è proprio di questo che parliamo. Un Blu Radio Sera in versione un po' particolare, perché c'è un appuntamento live. Sì, un grande appuntamento live, grazie alla Silvia che è qui presente. Siamo riusciti a portare in studio, visto che ha presentato il suo nuovo album, il primo album da solista. Buonasera Davide Ferrari. Buonasera a voi. Come stai? Bene? Molto bene, sono molto contento. Ecco, diciamo che Davide non è nuovo delle nostre frequenze, è già stato a trovarci qualche anno fa, non era da solo, era con un gruppo. Con la band, gli FSC, però in questa serata è da solo perché ci presenta la sua primissima esperienza solista. Esatto. Con titolo proprio all'inglese F e basta. Esatto, quindi F. Velocissimo. Esatto. F come cosa, Flavio? Ma F come fondamentalmente il motivo principale del titolo del disco è il mio soprannome. Esatto. Cioè, io sono sempre stato chiamato così fin da piccolo. Quando giocavo a basket da piccolo, perché sembra che sia consuetudine che tutti i bambini alti debbano fare o pallavolo o basket, sì. Io facevo basket e quindi il mio soprannome nella squadra di basket era F, che poi è diventato di uso comune tra tutti i miei amici, quindi di fatto ancora ci sono le persone che non mi chiamano Davide, mi chiamano F. Certo, F, perché altrimenti se eri piccolo, Davide era troppo lungo per permetterti, esatto, di attraversare la strada, esatto, quindi sotto la macchina. Perché... Esatto. F, fermo. Esatto. Qualcuno ha anche scritto F come simbolo di materiali chimici di alta infiammabilità, F come fortuna. Speriamo che abbia ragione questo qualcuno. Ecco, che qualcuno che ha scritto sta roba. Sì, fortuna, perché nella prima esperienza solista, voglio dire, c'è un po' di... uno spirito che bolle in continuazione, sì, che dice ce la farò, sì. Alla fine, adesso, nei primi risultati che stai ottenendo, i primi grappoli d'uva che stai raccogliendo, come sono? Guarda, sono succulenti, nel senso che la presentazione del disco, che è stata appunto sabato scorso qui a Padova al Teatro delle Maddalene, è stata veramente un successo oltre ogni mia aspettativa. La sala era piena, pienissima, e c'è stato proprio un feedback da parte del pubblico veramente notevole, e dunque devo dire che finora, insomma, facendo i dovuti scongiuri, sembra che stia andando tutto molto bene. Diceva Flavio, sì, Davide, a microfoni spenti, che ha esaurito tutti i dischi, quindi è stato un grosso successo. Esatto. Assolutamente sì. Quindi... Ma perché ne avevo stampati pochi? Beh, certo, ma si fa sempre così, magari, senza crederci troppo. Ma vabbè, quindi avrai il tuo da fare per... Assolutamente, sì, per stamparne altri, certo. Bene. Completamente un'autoproduzione, Davide. Sì, assolutamente. Sì. Perché la scelta di un'autoproduzione? Guarda... Devo dire, su questo argomento sono abbastanza critico, nel senso, ho un in questo momento storico credo che la discografia italiana stia proponendo delle cose che non voglio giudicare, però dico solamente che non mi appartengono, okay? Sì. Perché è tutto molto legato al mondo dei talent show, è tutto molto legato a un tipo di circuito che comunque da cui non mi sento rappresentato, no? Noi andiamo in onda proprio quando ci sono i talent show dalle, esatto, altre parti. Questa è una forma di protesta in televisione, che infatti io apprezzo, quindi... tantissimo. Certo. E detto questo, dopo aver avuto comunque, insomma, un confronto con tutte le varie discografiche con cui io, voglio dire, gli FSC erano prodotti comunque da una major, quindi... Dalla Sony. Dalla Sony, ecco, non volevo dirlo. Possiamo citare, non c'è niente di male. E, dopo aver avuto un confronto con tutti questi personaggi, mi sono reso conto che comunque per avere un certo spazio creativo, una certa libertà e poter esprimere questa urgenza artistica che sentivo, l'autoproduzione fosse la cosa più efficace. Certo, anche perché si è lontani da tutte le forme sì, esatto, di costrizione. Uno fa quello che vuole. Certo, certamente. Veramente. Ricordiamo che Davide Ferrario è qui con noi in radio, però potete anche vederlo, abbiamo le webcam puntate su di lui. L'indirizzo per vederlo è diretta rockwave.altervista.org. Sono puntate anche sulla Silvia, eh? Esatto, più che su di me, che io sono meno interessante. Vabbè, adesso vediamo di aggiustare l'inquadratura, benissimo. E allora, abbiamo parlato di questa lettera F, che è formata da 12 lettere, quindi da 12 pezzi che formano il tuo disco. Davvero molto bello ascoltarlo, è sempre stato piacevole. Grazie. Non è facile al primo ascolto dare subito un giudizio, però poi il secondo, il terzo ti affascina e quindi vuoi ascoltarlo la quarta volta. Sai, non c'è stata una ricerca della facilità, devo dire, nella scrittura dei pezzi e nemmeno nella realizzazione, proprio per quel discorso di qui sopra. Cioè, credo che la libertà espressiva non debba essere incanalata in un concetto di, come dire, di appunto di facilità e quindi dei ritornelli e di queste cose. Non bisogna fare degli ammiccamenti, no? Certo. Quindi stiamo parlando dell'album, però direi che per accontentare anche gli ascoltatori facciamo ascoltare subito un pezzo dal disco. Ricordiamo che però Davide si è portato da casa la sua chitarra. Esatto. E quindi ci farà ascoltare più tardi anche delle canzoni dal vivo solo per voce e chitarra. Però per aprire adeguatamente la trasmissione abbiamo scelto un pezzo dell'album che si intitola F e per cominciare bene direi di fare un po' di caos. Esatto. Allora, sistemiamo la canzone, il pezzo si intitola Caos, siete su Blu Radio Sera, benvenuti a tutti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Suona il suono della convinzione, yeah, yeah. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua all'interno di Blu Radio Sera. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara dall'altra parte del vetro, il nostro ospite che salutiamo nuovamente, Davide Ferrario, che è venuto, ha fatto molta strada, è venuto direttamente da Monselice però insomma è vicino a casa nostra, però voglio dire adesso è diventato un personaggio di, come dire, chilometratura un po' più ampia, certo, nel senso che si sta facendo conoscere in giro per l'Italia, anche forse sì. Anche all'estero sei stato. Beh, all'estero sì, ho fatto qualche esperienza, chiaramente come turnista, nel senso quando lavoro, lavoro appunto, lo ricordo, con Franco Battiato e Gianna Nannini principalmente come turnista, come chitarrista, e sì, sono stato, cioè, abbiamo fatto delle cose all'estero, in Europa ma anche negli Stati Uniti. Insomma, una bella esperienza. Bellissimo. Come si suona negli Stati Uniti? Bello. Devo dire che è un mondo, ovviamente dirò una banalità, però è un mondo completamente diverso, quindi hai a che fare insomma con delle strutture molto più all'avanguardia, le persone sono più recettive, insomma è un mondo che pulsa di musica in qualche modo, no? Dove c'è una recettività vera. E sono anche soprattutto molto ben disposti nei confronti, sì, di quelle che sono le altre contaminazioni musicali o... Perché c'erano già abituati da prima, no? Sì, sì, io credo che sia un popolo comunque, insomma, voglio dire, tutto quello che è il pop e il rock alla fine, è inutile che ce lo neghiamo, viene da loro. È ovvio che sia così. Qua nella presentazione di Caos è scritto: è banalmente quello che sento quando guardo oggi la televisione. Credo non ci siano bisogno di spiegazioni ulteriori, no? Cioè, non è... E poi scrive: a volte la tentazione di fare parte di quel mondo è talmente forte che ti verrebbe da cercare di entrarci, anche se sai benissimo che saresti un pesce fuor d'acqua e che quel mondo con te non ha nulla a che fare, a che vedere. Guarda, questo è un po' quello che ho provato, sai, io, con gli FSC appunto abbiamo fatto questa esperienza che era Sanremo, ed è stata un'esperienza molto formativa da un certo punto di vista, perché uno si rende conto di che cos'è quella cosa lì che tutti vediamo in TV tutti i giorni e non sappiamo mai bene realmente però cosa ci sia di... cioè, sembra che uno è lì ed è automaticamente famoso, no? Poi di fatto però sappiamo benissimo che poi non è per niente così. Quindi io la rifarei, è un'esperienza che rifarei assolutamente. Da un certo punto di vista però mi sono reso conto del livello di finzione che c'è e credo che non mi appartenga. Io credo che al mondo ci siano due categorie di persone, no? Quelli che sanno fingere, in campo artistico intendo, quelli che sanno fingere e quelli che non sanno fingere. Io non so fingere, quindi di fatto non poteva funzionare, no? Quella cosa lì. Però devo dire che oggettivamente uno guarda X Factor e non può non esserne attratto, no? Perché è una cosa talmente luccicante, talmente... come dire, promette talmente tante belle cose che è molto accattivante. Però la sera ti posso garantire che fa male gli occhi vedere. Fa assolutamente male agli occhi. Io devo anche dire che non l'ho mai guardato in vita mia. Quindi, ecco, insomma, quindi... tutto sommato parlo di aria fritta, sì, perché sì, non lo so. Certo. No, io cerco di non guardarlo, ma ogni tanto ci passo davanti. Trasmissioni che guarda mia signora. Insomma. Vabbè, abbiamo gusti diversi. Mentre io mi ascolto i Gentle Giants in cuffia, lei si guarda. Facciamo top of the tops i Gentle Giants, però. Ah, molto bene. Quindi non era X Factor, facevo top of the tops all'epoca. Che all'epoca, però, voglio dire, c'era tutt'altro spessore. È tutt'altro spessore. Vabbè, ma torniamo a parlare di Davide Ferrario, il suo ultimo lavoro che è venuto proprio qui a Blu Radio Veneto a presentarlo. Si intitola F, come Ferrario, come Flavio, Firenze, come Flavio, forza, fortuna. Insomma, continuando così potrebbero uscire delle robe orrende, sì. Quindi io mi fermerei. Oppure prendiamo semplicemente un vocabolario. Esatto. Parlando del, musicalmente di Caos, noi nella recensione abbiamo parlato di due pezzi che trascinano l'album, che sono un po' diversi, il pezzo iniziale e questo Caos che ha piuttosto pompato nel senso positivo del termine. Come mai hai inteso così, Davide? Guarda, allora, prima di tutto... credo sia forse l'unico pezzo del disco che ha un'attitudine, se vuoi, rock. Sì. Perché poi fondamentalmente il disco è un disco pop, che io definisco pop, insomma. c'è da dire questo in generale, tutti i pezzi cioè i pezzi sono nati in un periodo di tempo molto lungo, quindi ogni pezzo risente di un'influenza. Chiaramente anch'io come tutti ho degli ascolti che variano nel tempo, no? Uno ha un periodo in cui si invasa con determinate band, quindi ogni pezzo risente dell'influenza di quello che in quel periodo stavo ascoltando. Caos è un pezzo che fondamentalmente viene dal mondo che può essere quello dei Placebo o di quel tipo di Brit Rock lì di un certo tipo, no? E niente, poi cioè, sai, sostanzialmente io gli arrangiamenti li faccio quando scrivo il pezzo, non è una scelta che faccio a posteriori, io li scrivo arrangiandoli già. Ho capito. Quindi mi esce in automatico così. Già così predisposto. Sì, sì, assolutamente. Caos è assolutamente uguale a come quando l'ho scritta, poi chiaramente è stata registrata meglio, sono state introdotte delle cose, però il concetto di base dell'arrangiamento è il medesimo. Quindi la stessa energia con cui sei partito è quella con cui hai tenuto... È quella che cerco di tenere, ma certo. Proprio perché penso che nella fase di scrittura trasmette in quello che registra qualcosa, no? Che poi probabilmente non tornerà mai più. Quindi è fondamentale tenerlo vivo fino alla fine del processo e non fare la stupidaggine di perdere invece l'energia. A volte uno fa un provino e poi succede che il disco che suona molto meglio non ha quell'energia lì, no? Certo, buona la prima di solito, che è quella che viene spontanea, la massima spontaneità. Sono certo. Di questa scuola qui. Benissimo, allora visto che sei di una buona scuola, prendi mano alla chitarra, Davide, perché in questa serata insomma non vogliamo perderci troppo in chiacchiere ma tanto in musica, quindi scegli una canzone del tuo album da fare, da regalarci così con la tua chitarra. Farei quella che apre il disco, che si chiama Come Ieri. Benissimo, allora dagli studi di Blu Radio Veneto in diretta siamo con Davide Ferrario per la presentazione del suo nuovo lavoro, il suo primo lavoro da solista, si intitola F e ce l'ascoltiamo con Come Ieri. Vai Davide! È già un inferno mentre strappi via, i miei nervi addormentati come rami essiccati. Lo sguardo di chi passa e osserva in silenzio. Urla più di una lama che squarcia il cielo in due, i tuoni, la pioggia, il freddo e le macchine, l'estate e il mare, gli ombrelli che volano via. Nella tempesta che non porta quiete, i fogli, le scritte, le foto, le speranze, le parole, le promesse, qualche mese trascorso assieme, nell'impegno che non serve a niente. Ed è già giorno mentre corri via, tra le zone insensibili, tra i miei giocattoli vecchi ammassati, è un incrocio tra lealtà e scommessa che non sembra riportarci a galla, è un inchino di fronte a una folla che ci odia. I campi e le luci e i paesi come fosse realtà, in un album che macererai, le corse, i ritardi e le scoperte, gli abbracci e le uniche volte, rinchiusi per sempre nel cuore, ma non trovi la combinazione. Ed eccolo qua, Davide Ferrario, un bel pezzo davvero eccezionale tratto dal suo lavoro, quello che stiamo percorrendo insieme, si intitola F, e questa canzone che abbiamo appena ascoltato, questo bel pezzo, si intitola Come Ieri. Come Ieri, che adesso l'abbiamo ascoltato in una versione tutta chitarra e voce, però c'è un qualcosa che varia nell'inizio del disco. Sì. C'è un qualcosa che riguarda l'atmosfera un po' noise, qualche rumore. Come mai questa... Guarda, allora... questo inserimento. Ti racconto la genesi di questo pezzo, che secondo me è divertente. Mm. Innanzitutto ho deciso di aprire il disco con un pezzo non facile apposta, perché giustamente io voglio molto bene chi ascolta i miei dischi. Sì. Penso che uno debba superato quello scoglio lì, poi il resto è una passeggiata in qualche certo. modo, no? Ed è un pezzo che va in crescendo di fatto, perché adesso chiaramente nella versione acustica diventa un'altra cosa, però è un pezzo elettronico fondamentalmente. Sì, sì, rumorista, abbiamo sì, giudicato esatto. così all'inizio. E quella cosa del rumore che voi avete percepito come rumore, di fatto cioè questo pezzo è stato scritto chitarra e voce, praticamente come io ve l'ho suonato. E sempre per il discorso che facevamo prima, il provino aveva un certo tipo di energia, no? Era stato registrato con, sai, il computer portatile che c'è il microfonino, quello incorporato, che si sente sempre malissimo, sì. proprio non c'è speranza, no? Però era bello, era tutto distorto, una roba allucinante. E allora io ho detto, però questa cosa qui che mi piace, no? Adesso prendo il campioncino della chitarra, no? Lo metto a tempo e costruisco il pezzo praticamente sul giro di accordi del provino, che è tutto distorto, tutto rovinato, tutto brutto, e voglio però che sia la matrice di quel pezzo lì. E da lì sono partito, no? Da questa sensazione, sì. data questa... a me ricordava, non l'ho scritto nella recensione, l'abbiamo scritto, Not Whist, te li ricordi? Sì, assolutamente. È qualcosa di loro, certo. mi ricorda, mi veniva in mente loro. Ci sono un paio di cose del disco che ricordano. Esattamente, un gruppo, bel gruppo quello là, molto bravi. Bene, allora io direi che possiamo anche proseguire nell'ascolto di un altro pezzo, sempre tratto da questo bel lavoro di Davide Ferrario, che è venuto qua, lo ringraziamo ancora, a presentare il suo disco, quindi ancora benvenuto su Blu Radio Veneto, e andiamo con la traccia numero 6 del disco, che si intitola Stanze Vuote, e poi lo andremo a commentare insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Quanti specchi appesi quassù, da due giorni non ci abito più. Tu li guardi e ti chiudono dentro, tra due voci, un eco e il cemento. E di nuovo quell'uomo al bar, con fiducia mi chiede di te, tra le labbra rispondo un sorriso, ho scordato il tuo nome il tuo viso, ho lasciato un po' crescere l'erba, ha iniziato a piacermi la pioggia, mentre tutto è un po' più ordinato. Ma vorrei mi vedessi così, per capire che pensi di me. Dopo me passa, certe cose rimangono a casa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, torniamo in diretta dopo aver ascoltato questa canzone, questo pezzo, si intitola Stanze Vuote. A cantarla e a suonarla è Davide Ferrario, che è qui con noi ospite in questa serata di Blu Radio Sera, eccezionalmente dal vivo. Dal vivo, assolutamente dal vivo. Ancora buona serata a Maurizio e a Davide naturalmente, nonché alla signorina, alla Silvia. Sì, giusto. Che è stato il nostro gancio, dobbiamo ribadirlo. Grazie Silvia che sei permesso di rincontrare Davide Ferrario. Parlando di questo pezzo, Davide, io ho scritto nella presentazione, mi ha entusiasmato, mi sono innamorato fortissimamente di questo pezzo perché mi ricordava qualche atmosfera delicata, malinconica, certe cose di Herbert Pagani che Flavio conosce. Tu non conosci Herbert Pagani, però musicista, grandissimo musicista che se n'è andato un po' troppo presto. Non conosco di nome. Di nome, esattamente. Francese, cioè lui era chi ha inventato le radio private, era Radio Monte Carlo, famosissimo. E ha queste atmosfere malinconiche, l'uso del pianoforte, l'uso della voce, mi ricorda molto Herbert Pagani. Secondo me è un grande onore, a mio parere. Assolutamente, io sono molto felice che... Anche perché devo dire che sei uno dei pochi che ha colto... cioè che ha avuto la sensibilità di cogliere certe cose su questo pezzo qui, che peraltro è un pezzo che nasce, come ti raccontavo prima a microfoni spenti, come una colonna sonora. Questa era la colonna sonora di un cortometraggio che è stato realizzato su un'opera di Elena Candeo, che è l'autrice della copertina dell'album ed è un'artista padovana, che pittrice, che fa delle performance, fa delle installazioni eccetera. E una delle cose di cui lei si occupa è la land art, no? Quindi lei costruisce delle cose sugli alberi, cioè lei sfruttando la terra realizza delle donne, e rifacendosi al mito di Daphne, delle donne sugli alberi. E c'è questo video che è stato realizzato su lei che fa questa cosa, questa, no? Cosa. E io ho fatto la colonna sonora, quindi era un pezzo strumentale al pianoforte. Una volta sentito il pezzo, che in realtà l'ho scritto guardando il video in diretta, no? Cioè sai quelle robe che ti arrivano così. E poi ho detto, beh, però è bello, non è che ci canto sopra. E ci ho cantato sopra. E in realtà poi il testo non ha nulla a che vedere con il video, chiaramente, perché parla di tutt'altro. Certo. Però l'ho trovato molto centrato e molto coerente, anche se è un genere che di fatto io non frequento, questo molto cantautorale, sì, vero, molto appunto francese, come si diceva, non l'ho mai fatto, no? E come mai, non so se si è inserito esattamente alla traccia numero 6, proprio alla metà? Adesso ti spiego perché. Ci sarà un motivo. Allora, c'erano due cose che io volevo fare con questo pezzo all'inizio. Il primo era aprire il disco, solo che ho detto apro il disco con un pezzo così triste, cioè la gente mi uccide, capito? Perché l'ultima frase dice non è vero che tutto poi passa, certe cose rimangono a galla. Non lo puoi mettere né all'inizio né alla fine, certo. Perché se lo metti alla fine uno poi si ammazza nel fronte così. Quindi ho pensato, e tra l'altro a seguire di questo pezzo c'è una traccia che è una traccia praticamente ambient, sì, esatto. Che in gergo artistico e sperimentale viene chiamato un drone, no? Cioè una nota, un accordo molto lungo, in realtà sono delle note di chitarra tirate, strecciate, si dice in gergo, all'infinito per tipo 3 minuti. Ed era collegato a livello proprio di registrazione, erano collegate insieme queste due cose, no? Anche perché il pezzo ha dei rumori di fondo della pioggia che sono stati registrati appunto nel posto dove io ho registrato il disco, cioè non sono finti di quelli presi, comprati, sono veri, li ho fatti proprio io. E quindi per mettere quel pezzo ambient che in realtà separa il disco tra la prima e la seconda parte, questo doveva essere immediatamente prima. E poi mi andava bene che fosse a metà, in modo che il disco abbia una, come si dice, una gaussiana al contrario, no? Cioè, ho capito. Come andamento dell'umore. Anche perché permette all'ascoltatore che è attento a quel pezzo di passare lentamente all'altro, sì, riflettendo sulle parole che, esatto, hai detto. Ecco. Anche perché appunto il pezzo che segue comunque è, al contrario, è molto speranzoso e molto solare. Sì. E quindi, come dire, quindi buttati, ma usa il paracadute. Esatto, appunto, cioè, pensaci due volte. Certo, certo. Benissimo, allora, ricordiamo sempre Blu Radio Sera, siamo sempre insieme con Maurizio, Flavio, abbiamo come ospite Davide Ferrario. Questa è la presentazione dell'album, suo ultimo, che si intitola F. Potete vedere Davide Ferrario anche collegato con le webcam sul sito diretta rockwave.altervista.org. Ci sono le telecamere che guardano sempre su Davide, perché quello dove guarda la Silvia è un po' puntato alto, quindi si vede solo, diciamo, una parte del capello. Bisogna migliorare, diciamo, la posizione. Invece Maurizio non lo inquadro, insomma. Fai bene, perché siamo ancora in una fascia protetta, ecco. Quindi, perlomeno. Vabbè, a parte questi scherzi così del mestiere di chi fa il video reporter. Allora, Davide, imbraccia ancora una volta la chitarra, facci vedere e sentire come sei bravo. Che canzone abbiamo scelto adesso da far ascoltare, non da disco ma direttamente dalla tua chitarra? Abbiamo scelto L'ultimo giorno che ho, perché in realtà adesso è quella che mi è venuta in mente, però poi ne farò anche altre. Benissimo, allora L'ultimo giorno che ho con Davide Ferrario. Quel giorno è arrivato, adesso devo uscire, non fermarmi. Ho provato a non lasciarmi andare, io vorrei ma non lo posso giurare. Alla fine non ci credo neanch'io, e adesso cercherò di non farmi trovare. Proverò quasi tutte le strade, e se poi non ci saprò fare, lascerò tutto quello che vuoi di me. Questo è l'ultimo giorno che ho, la mia occasione, tutto è per tutto, in questo ultimo giorno che ho. Se Sia maledetto il tempo che sabbia, sia maledetta la noia che nebbia. Io con rabbia mi son fatto ingannare. Adesso cercherò di non farmi trovare. Proverò quasi tutte le strade. E se poi non ci saprò fare, mentre vado lascio tutto ciò che vuoi. Fammi una foto che venga bene, che questo è l'ultimo giorno che ho, la mia occasione. Ho deciso di perdermi tra tutte le scelte da fare. Io forse ho deciso di perdermi. Io forse non voglio tornare. Questo è l'ultimo giorno, in questo ultimo giorno, in questo ultimo giorno che ho. Davide Ferrario da F, abbiamo ascoltato L'ultimo giorno che ho. Neanche questa, una canzone allegrissima, perché no, insomma, l'ultimo giorno che si ha a disposizione, si chiede anche di fare una foto, si teme anche che la stessa vada a finire. In realtà non parla di questo, appunto, però. Siete, ecco, anche i primi che mi dicono questa roba qua e io mi sto per suicidare dopo questa frase. No dai, sto scherzando, ovviamente, sì. Grande pathos, sì. Tu hai usato la chitarra acustica stasera, sì. Però come se usassi la chitarra elettrica, hai dato un pathos, un'energia fortissima a questo pezzo. Io nasco come chitarrista acustico, in realtà, anche se poi di fatto il lavoro appunto mi porta ad essere un chitarrista elettrico, ma dico chitarrista acustico in maniera forse anche impropria, nel senso che non sono un cultore dell'acustico, però di fatto sono cresciuto suonando la chitarra acustica, perché era la cosa che più mi era comoda per scrivere, per fare, è il mezzo più immediato per fare qualsiasi cosa, no? Anche per suonare le cover, se vuoi, in camera da letto. Cioè, certo. Cosa suona? La chitarra acustica. Anche certo. Perché quando ti alzi dal letto con qualche idea, vai là, stacchi la spina. Certo, esatto. Uno deve mettersi, diventa pazzo. Hai capito, prendi la chitarra e via. La chitarra acustica, il registratore, quello sai, rec, quelli che vanno i tasti play e rec. E quindi sì, sono sempre stato abituato ad avere una forte dinamica, no? quando suono i pezzi in acustico cerco comunque di non renderli, cioè di renderli il meno piatti possibile, consapevole del fatto che chiaramente mancando tutto il resto, giustamente, insomma, uno deve puntare su altre cose, no? Ma vediamo di capire un attimino anche quella che è la storia raccontata, sì, nell'ultimo giorno che ho. A cosa si riferisce? Qual è l'ultimo giorno di Davide? Ma in realtà, no, beh, di Davide. Di Davide, no. Non lo vogliamo saperlo. No, lo no, sappiamo, nel senso della canzone. Nella canzone, no, beh, sai, io devo dirti che cerco di essere, per quanto possibile, sempre molto poco autobiografico, o meglio, dall'autobiografia cerco di ricavare delle cose universali, no? Che poi è la chiave per scrivere delle cose in cui qualcuno si può riconoscere, no? Se vuoi comunicare dei concetti, fondamentalmente non gliene frega niente a nessuno di sapere quello che dici tu, cioè della tua vita, ma vuole comunque identificarsi e trovare. Credo che la compiutezza di un'opera si abbia in quel momento lì. E l'ultimo giorno che ho è chiaramente, non è nulla di specifico. L'ultimo giorno che ho parla di un addio, un addio doloroso che tu devi dare assolutamente controvoglia, però purtroppo è così, ok? Quindi può essere qualsiasi cosa. Quando finisce ognuno... anche un'attività lavorativa, quando finisce una storia d'amore, quando finisce un qualcosa. Quando qualcuno è obbligato a partire per sempre e ad abbandonare qualcosa per sempre contro la propria volontà. Costretto. E vuole vedere la foto di com'era o di com'è in quel momento, no, quando lascia. Vuole che l'altra persona abbia un ricordo, capito? Cioè la foto non è per me che me ne vado, è per te. Ti sto lasciando da solo, da sola o qualsiasi persona si voglia usare e però voglio che tu abbia qualcosa di me che ti rimanga. Che è una, cioè la cosa più ovvia è la foto. La foto, sì, chiaramente. Certo. Ho capito, benissimo. Musicalmente come è stata inventata? Come l'hai costruita? Dove questo parte? È uno dei pezzi più vecchi del disco. Infatti si sente ancora, secondo me, un po' di come dire, di modo di scrittura quasi da band, no? Sì. Più che da solista. Perché infatti anche questo comunque ha, nella versione del disco, molte chitarre rock, sì, molte vero. Cose... E beh, sai, anche questo è nato alla chitarra fondamentalmente. È partito da un riff di pianoforte che chiaramente adesso non ho potuto fare, nel disco c'è, e dai due accordi iniziali del pianoforte, che inizialmente erano una roba proprio al piano che io avevo fatto così, ma sai, quelle robe che uno si mette lì e fa e registra e per caso dici ah bello, poi lo risenti dopo un mese e dici però ci potrei fare un pezzo su questo, ed è nata così. Ma non hanno i fogli di carta sparsi nella valigia questi qua? Sì, anche assolutamente, quelli. Perché poi tutto questo è avvenuto assolutamente in mezzo alla vita da tour. Certo, la vita che io ho fatto. Sempre pronti al prossimo viaggio. Questa tua frase mi ricorda qualcosa di Jackson Brown, ti ricordi? Di Stay? Esattamente, questo continuo andare in tour e scrivere nel tour. Sai, a un certo punto uno deve fare un po' di conti con se stesso, cioè se tu vuoi portare avanti due cose parallelamente, che sono la vita del turnista e il fatto di scrivere dei pezzi tuoi. Certo. Tu sai che non puoi rimanere a casa per più di un mese di fila, perché di fatto poi hai sempre qualcosa da fare. Quindi l'alternativa è, l'unica alternativa è imparare a scrivere e a inventarsi le cose nelle stanze degli alberghi, nel treno, nella macchina, usare i memo del telefonino e tutte queste cose poi che ci aiutano, no? Finardi lo faceva in treno. Sì, ma lo scriveva in treno, ti scriveva i pezzi in treno. Il treno è uno dei posti dove io ho scritto delle cose di cui sono più contento. Se non so sbagliare, è stata scritta in treno. Ah, ecco, vedi. Benissimo. Comunque, potessi scegliere, visto che non sei vincolato da major che poi ti impongono un certo pezzo per entrare, per diciamo lanciare il CD, quindi un traino importante, tu sceglieresti questo L'ultimo giorno che ho? No. Io sceglierei Retrocattiva. Retrocattiva. È la numero 4. Retrocattiva è la numero 4, che poi allora la sentiamo con la chitarra. La sentiamo con la chitarra oppure dal disco, come preferite voi. Benissimo, allora ci concediamo una pausa da disco e abbiamo un'altra canzone del tuo album, che è la numero 8, la numero 8, che ha anche un featuring importante. Sì, è Lele Battista. Lele Battista, ex cantante di La Sintesi, di cui peraltro è appena uscito il secondo disco da solista, ed è un mio, oltre che un mio amico, uno dei cantautori che stimo di più in Italia in assoluto, e ho la fortuna che sia anche un mio amico, quindi bene, più di così come non coinvolgerlo, no? Benissimo, allora da Blu Radio Veneto vi spariamo questa bella canzone che si intitola Cercando un senso, e continuiamo con l'ascolto piacevole del nuovo album di Davide Ferrario, che si intitola F. Blu Radio Veneto. Privo di senso, inquieto, dispersivo e denso, con un cielo d'inverno gonfio di pioggia. Dolci, dolci, leggerezze attendo, so che dentro di me qualcosa luccica. E come non essere essere contento al suono di due nuvole che si scontrano. Lampi di infinito scendono, vengono verso di me. Cercando un senso mi strazio, mi sfinisco, è dura. Tutto sommato la trovo un'ottima sventura. La verità quando ti sfiora per un breve momento fa quasi paura. Cercando un senso illumino anche questo vuoto. Tutto è talmente strano che diventa un gioco. La verità che ti attraversa in un preciso momento è irresistibile, è fuoco dentro. Le caravelle in rotta verso l'India si imbattono in un mondo completamente sconosciuto. Io sono in volo verso Marte ma mi accontento di un posto un po' isolato sulle nuvole. E invece ogni volta che mi fermo a pensare si consuma un dramma esistenziale. Cercando un senso mi strazio, mi sfinisco, è dura. Tutto sommato la trovo un'ottima sventura. La verità quando ti sfiora per un breve momento fa quasi paura. Cercando un senso illumino anche questo vuoto. Tutto è talmente strano che diventa gioco. La verità che ti attraversa in quel preciso momento è irresistibile, è fuoco dentro. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora una volta dai microfoni di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata a tutti. Siete in compagnia di Flavio Maurizio. Questa sera assieme a Davide Ferrario stiamo ascoltando piacevolmente dei pezzi davvero favolosi sia per voce e chitarra in diretta qui dei nostri studi. Troppo buono. È troppo bene, mio dovere. E poi stiamo ascoltando anche il suo, la sua autoproduzione, formata anche dal pezzo che abbiamo ascoltato, Cercando un senso, featuring Lele Battista, che abbiamo ricordato già essere un grande amico di Davide. E Davide mi ha fatto una richiesta, Flavio. Sì. Vorrebbe fare non i 5 dischi da portare su un'isola deserta, diciamo, ma ho 3. Accettato una proposta. È una proposta. I 3 dischi da portare su un'isola deserta. Pensavo volesse augurare buon compleanno a qualcuno. In realtà, quindi so. Una richiesta per i 3 dischi da portare su un'isola deserta. Sai che facciamo il giochino. Sì, li vuole dire lui. O li vuole sapere da noi? No. Ecco, ditemi i vostri, va, che è più divertente. I conduttori non si possono sbilanciare, i conduttori. Allora, i 3 dischi, sicuramente, io adesso sarò molto banale, sicuramente Ok Computer di Radiohead. Che tu sai a memoria suonare la chitarra, sì, tutti i pezzi. Adesso infatti vi faccio Paranoid Android la prossima. Perfetto. Poi ci metterei un The Great Escape dei Blur. Come mai Blur? Bel gruppo i Blur. Tantissimo, io sono proprio un fan sfegatato di Damon Albarn e di tutto quello che fa, quindi anche che di fa Gorilla, tante cose, fa tante tantissime, cose. E io proprio credo che sia... che nessuno possa, adesso dico una roba cattiva, che nessuno può chiamarsi pop star finché è vivo lui. Ah! Però. E poi il terzo, ma ci metterei un Sgt. Pepper dei Beatles. Quello è fondamentale. Insomma, dai. Fondamentale. In the Life credo sia un pezzo che ha cambiato appunto la vita a tutti. Esattamente. Bene. Beh, abbiamo ascoltato già i 3 pezzi, io cercavo di mettere in sottofondo Paranoid Android... No, ma te la grande, ci sei riuscito, grande. veramente stupenda, bisognerebbe ascoltarla fino alla fine, esatto. Dura 6 minuti e 20, Davide ci ha detto che conosce tutti gli accordi per filo e per segno, addirittura gli spazi tra una canzone e l'altra, fantastico. Fantastico, vabbè. E quindi è proprio quando si ama alla follia un gruppo, un modo di vedere la musica. Loro hanno, cioè, comunque sono. Io credo che in realtà ognuno di noi abbia avuto una band o un artista che ha cambiato la storia della, cioè che in qualche modo ha fatto scattare qualcosa, no? E loro, cioè, per me sono loro. In realtà quando è uscito questo disco io ero un teenager, perché avevo penso 16 anni, mi sembra che sia del 97 che è compiuto, sì. Quindi insomma ero molto giovane, ed è stata, sai, quella specie di illuminazione che ti arriva, tu senti una roba e dici, cavoli, ma, cioè, no? Certo. E è stato un po' questo, insomma, un po' come era successo con gli Oasis qualche anno prima, per dire, no? Quindi sono, sì, tutte band che comunque hanno inciso molto in quello che faccio. Solo che gli Oasis forse un po' si sono, come dire, musicalmente un po' sfaldati, perché non sono, sì, molto, come dire, coerenti come potrebbero essere Radiohead, no? Beh, forse no, sono stati più, sono due, ecco, cifre completamente diverse, certo. Erano più beatlesiani, cioè Radiohead non sono mai stati beatlesiani, gli Oasis erano beatlesiani in alcuni momenti. Forse sì, all'inizio. Anche se ti devo dire che questa cosa degli Oasis e dei Beatles un po' la trovo un po' troppo tirata, un luogo comune, nel senso che poi di fatto sì, è vero, però è anche vero che tante band inglesi assomigliano, sì, ai Beatles, beh, certo, perché di fatto i Beatles sono, è un po' come dire che la musica italiana assomiglia tutta ad un certo, cioè non so, a Modugno, sì, capito. Ci sono delle cose che segnano di uno stato talmente tanto che poi di fatto rimangono nel DNA della gente, anche se non vuoi, no? Ma due menti molto strani, fratelli Gallagher, quindi sì, assolutamente diversi, sì. La fine del gruppo doveva esserci ed, sì, è arrivata per quello, sì, chiaramente, sì, sì, due entità troppo forti e peraltro insomma veramente si menavano, cioè, non è una leggenda, è proprio così, quindi insomma è alla grande. Sono sempre stati i fratelli coltelli, voglio dire, sì, assolutamente. Poi sul palco comunque davano il meglio di loro stessi, sì, sì, fuori il peggio, sì, poi, che... a noi interessa quando sono sul palco. Vabbè, la mamma li voleva solo sul palco, di fatto, alla fine. Poi vabbè, allora dobbiamo lasciare un piccolo spazio alla pubblicità, il, sì, tempo che Davide imbraccia ancora una volta la sua splendida chitarra e ci farà ascoltare un altro pezzo. Però diamo una piccola pausa con i nostri sponsor. C'è dovuto farlo. Eccoli qua. Spot. Cercare segni di speranza per l'Italia di oggi. Con questo impegnativo programma, la Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Padova aprirà sabato 9 ottobre il nuovo anno formativo. La proposta è rivolta a persone impegnate in ambito sociale ed ecclesiale ed anche ad amministratori e politici. Per i giovani è un percorso che aiuta ad iniziare con consapevolezza l'impegno nella società e nella politica da cittadini responsabili. Il corso inizierà il 9 ottobre alle 15.30 presso la Facoltà Teologica del Triveneto in via del Seminario 29. Per informazioni telefonare allo 049 877 1705. Email pastoralesociale@diocesipadova.it. IOF San Giuseppe, patrono della buona morte. Un aiuto discreto e professionale nelle circostanze luttuose. Professionalità, correttezza e trasparenza al vostro servizio 24 ore su 24. IOF San Giuseppe, in via Castellana 58H, Venezia. 041 97 79 97. Con il patrocinio di Caritas Veneziana e Cooperativa MACE. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, Sera. Ancora con Blu Radio Sera, ancora con Davide Ferrario che in questo momento ha imbracciato la chitarra. C'è un altro pezzo che bolle, che lui vuole fare ascoltare, si intitola Non Capiranno. L'ascoltiamo, sempre un estratto dal suo lavoro, il suo primo lavoro da solista, che si intitola F. Thank you. gli astronauti, vediamo i fantasmi delle nostre vite passate tra le galassie, e per ogni sogno che facciamo un corpo si muove, un corpo si muove. Ma tu spiegagli che a volte non si sa perché, anche se c'è bisogno di lasciarsi andare, non si riesce a cancellare le figure che diventano onde del mare. Ma non capiranno, no, ma non capiranno. Pescatori chini sopra le reti, passano le navi i giorni, ma mai il tempo, e per ogni rotta che invertiamo la bussola è lì, che forse una speranza c'è, si tratta solo di cercare nel fondale e non restare fuori tra i riflessi e i flutti, ma si tratta di nuotare. Ma non capiranno, no, ma non capiranno. Che forse un errore c'è e stavolta devi aiutarmi a uscire, che nel buio non ci sento quasi più e perdo le sfumature. Non si può parlare subito dopo questo pezzo. No, no, no. Fantastico, anche perché altrimenti non capiremo fino in fondo quello che voleva dire Davide all'interno di questa sua canzone così melodica che si intitola Non capiranno. C'è una ragione di questo pezzo importante, Davide, perché il maestro Franco sì. ti ha concesso nella Fleur 2 di eseguire questo pezzo da solo nel suo sì. tour. È così? Sì. È stata anche questa un'esperienza di quelle mie, no? un po' mistiche. La mia vita poi in realtà, non dovrei dirlo io, però è costellata da cose assurde, no? Che succedono, un po' tipo anche la storia degli FSC, insomma, che ormai non stiamo neanche a riraccontare. E niente, praticamente appunto avevo un po' di pezzi scritti al tempo, si parla di un anno e mezzo fa, e uno di questi era appunto Non capiranno. E stavo per partire in tour con Battiato nel tour di Flor 2, tour peraltro composto da 42, se non ricordo male, concerti, quindi un tour colossale, cioè una cosa... E a un certo punto Franco si è appunto offerto di farmi suonare questo pezzo, ma non in apertura come si farebbe, no? di consuetudine, ma in mezzo al concerto. Quindi lui in mezzo al concerto mi dice: adesso ragazzi vi presento un nuovo pezzo. E io suonavo questo pezzo, che chiaramente, insomma, essendo in un momento dove la gente comunque era già abbastanza contenta di aver sentito Battiato, ha riscosso un successo enorme. Poi era un'esibizione molto particolare, perché mi sedevo al pianoforte, avevo la chitarra in braccio, suonavo tipo 30 cose assieme, un po' così, quindi era anche abbastanza scenico, no? Uh-huh. E niente, quindi è stato molto bello, citando Battiato appunto. E poi quando ci si sente protagonista in una scena dove magari dovevi essere sempre, come dire, in secondo piano, perché il protagonista è lui, cioè improvvisamente, voglio dire, l'adrenalina ti va... Ah beh, devo dire che i primi due o tre concerti avevo la voce tipo così, no? Non capiranno, c'è proprio una roba, certo, orrenda. Però poi uno te la sentivi tu, però gli altri non la sentivano. Gli altri non la sentivano, perché... perlomeno così mi è stato riferito. Poi sai. perché si ferma poco prima di uscire dalle labbra. Che dice la gente a casa dopo, no? Cioè, sì, sì, sotto le coperte con la moglie. No? Vabbè. Per raggiungere Davide Ferrario anche via internet, come è possibile? Esatto, questo è attingere qualche informazione. Il disco si vende solo su internet, tra l'altro, vedi, essendo una cosa autoprodotta, non ho dei canali di distribuzione. Proprio del supporto fisico, e quindi mi sono arrangiato pubblicandolo su iTunes, su MySpace Music, su Amazon, su tutti questi portali, no, che vendono gli MP3 online. E beh, il sito è facilissimo, che è davideferrario.com, no? Che non è quello del regista, che sarà arrabbiatissimo perché lui magari voleva averlo lui e invece l'ho comprato io. E doveva pensarci prima. Esatto. Poi hai citato un'altra cosa, ti sono arrivato le royalties del regista per sbaglio. Questa è stata fantastica, è stata una storia anche sempre di queste esperienze mistiche, esatto, no? Cioè, che apro il bollettino, sai che prima ti mandano l'assegno, sì, e poi dopo un mese ti arriva il rendiconto. Esatto. Ti arriva il rendiconto e guardo e ci sono scritte tutte le varie cose. A un certo punto vedo scritto Tutta colpa di Giuda, che è un film di Davide Ferrario. Esatto. Ed è la colonna sonora di un film che lui ha firmato, credo, assieme ai Marlene Kunz, perché poi erano citati appunto Cristiano Rodano. E vedo appunto questa cosa, quindi rimango a bocca aperta. Poi gli ho scritto una mail, perché poi in realtà ci siamo talmente tanto sempre incrociati sulle robe ma mai conosciuti, che siamo diventati amici di email, no? Cioè, ci scriviamo delle cose. Infatti adesso poi peraltro è uscito anche il suo libro, e in contemporanea al mio disco, quindi ci scambieremo appunto l'opera. E gli ho scritto, gli è stato molto carino, mi ha detto: infatti sai, anch'io ero andato a chiedere un mutuo in banca e me l'hanno rifiutato, non è che per colpa sua. Fantastico. Vabbè, sono le cose che succedono, i casi di omonimia ci sono, sì. Io ne ho uno mio omonimo su Padova, ma fa tutt'altro lavoro che non il mio, per cui insomma sono... Anche al lui momento... fa tutt'altro lavoro, fa il regista. Sì, sì, sì, però voglio dire, ancora non ho ricevuto i suoi soldi, per cui in questo allora sono sfortunato. No, poi gliel'ho dati, non è che me li sono tenuti, no, cioè, questo chiariamolo. Certo. Ritornando a questo pezzo, qui chiaramente tu non l'hai fatto perché l'hai fatto dal vivo, c'è un finale alla Gilmour, sì. David Gilmour, quindi Pink Floyd, che ritornano, il tuo grande amore, sì, floydiano, grandissimo amore Pink Floyd, che sono riuscito addirittura a vedere dal vivo, avevo 13 anni credo, 12 forse, ma sono riuscito. Beh, ci sono molte influenze in quello che faccio, specialmente questo pezzo qui, in realtà più che Pink Floyd, forse addirittura all'ultimo Gilmour solista. Ah, ho capito, sì. Di On an Island. Sì, esatto, On an Island. Che io ho amato tantissimo e ho veramente consumato, e quindi inevitabilmente... Ecco, vedi. Cioè, si Flavio, nominano le canzoni arrivano. Insomma. Esattamente. E quindi inevitabilmente, insomma, c'è finito dentro un riferimento, almeno un solo, una roba da chitarrista nel disco, volevate farmela fare una, cioè non è un disco proprio che non c'entra niente con i chitarristi, una sola cosa da chitarrista c'è, almeno una, insomma, che uno dice, vabbè, certamente sa suonare, E poi c'è un piccolo contorno, qua abbiamo scritto io, un piccolo contorno elettronico c'è, sì, in questo pezzo. Perché l'elettronica è un tuo grande amore. Sì, sì, io sono cresciuto con l'elettronica, con i computer, con proprio ho iniziato a fare subito, cioè le prime cose che ho scritto le ho fatte subito al computer, no? Quindi anche dei pezzi dance. Anche dei pezzi dance, esatto. Ho fatto la dance per un periodo, tutte queste cose. E quindi inevitabilmente, cioè poi sai, se uno vuole farsi le cose da solo in casa e avere tutto subito, perché poi sono un impaziente, no? Quindi non ho la pazienza, aspettare uno che mi viene a fare la batteria, certo, mi viene a fare il violino, eccetera, no, niente. Su tutto subito, e quindi l'elettronica è l'unica cosa che ti può salvare, chiaramente, sì. Bene, allora continuiamo ad ascoltare i pezzi di all'interno di questo CD che si intitola F, torniamo a ripeterlo, e abbiamo scelto anche quello che Davide prima diceva che potrebbe essere il potenziale singolo. È in vendita su iTunes come singolo questo. Mm. Perfetto. Benissimo, quindi allora ce lo ascoltiamo, che il pezzo si intitola Retro Cattiva, e poi cerchiamo anche di capire il perché di questa retro cattività. Ancora, ma chi si fida di te? Strane domande, e non lo so più chi sei. Sogni, momenti e poi buttiamo via. Niente più è vero, farà male, vedrai. La domenica in cui ti ricordi di noi e nel caldo ti accorgi siamo mai stati persi o mai ritrovati, non è servito a niente, poi si è annullato così. Domingo domenica in cui mi archivierai come un sogno diverso da te. Noi parentesi chiuse, noi lontani, noi cose da lasciare all'estate ormai. Le domeniche in cui ti ricordi di noi e nel caldo ti accorgi che no, non ci siamo mai stati, ho perso. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, ascoltato un altro pezzo ancora meraviglioso, direi, quest'album. Maurizio, cosa decisamente ne pensi? Molto molto interessante. È un album che ha un momento di malinconia, ma c'è una grande esplosione di melodia, c'è la melodia che viene fuori. Questo sono molto contento che tu me lo dica. Perché la melodia è fondamentale, che io ho fatto. È la ricerca melodica che esiste, si trova, esplode, viene fuori con forza. Sono molto contento di questo, perché credo che, cioè, sia la base di cioè i pezzi devono funzionare anche, appunto, come li sto facendo, chitarra e voce, no? Comunque sì, deve arrivare qualcosa. Se non arrivi, io questo è l'esperimento che faccio sempre, no? Una cosa a cui tengo molto è proprio il test, se il pezzo funziona anche suonato, cantato sotto la doccia, no? Quasi, deve arrivarti qualcosa, se no, con la chitarra impermeabile. Esatto. Poi, chiaramente, chiaramente di plastica. Cioè, di plastica. Quelli giapponesi. Sì, esatto. Certo. No, è una roba che io credo sia fondamentale per la buona riuscita. Poi, sai, tutto è soggettivo, chiaramente, però a me, cioè, questi pezzi che ho messo nel disco sono pezzi che io credo funzionino anche in quel modo lì, e che è anche una cosa che poi mi permette, appunto, di venire in radio da voi e suonarli con la chitarra e divertirsi. Giusto, certo, è bravo, si fa così. Benissimo, allora stavo curiosando giusto nel sito appena poco fa citato, sì, quindi www.davideferrario.com, e ho visto che naturalmente hai citato l'appuntamento di questa sera, ti ringraziamo perché ci stai facendo una buona pubblicità, e quindi c'era anche voi questo, a me, quindi va benissimo. Quindi, però poi ci sono altri appuntamenti sempre in zona più o meno vicina, più comunque o meno. Beh, allora, sì, il prossimo più importante che cito, poi insomma rimando al sito per ulteriori cose, sì, è quello di giovedì sera, che è il 7 appunto ottobre, dove sarò alla Fiera delle Parole di Rovigo, che è un avvenimento molto importante dove partecipano un sacco di scrittori, insomma, di nome, insomma, per citare Gad Lerner, Tiziana Ferrari, persone comunque di un certo rilievo. E io appunto presenterò il mio disco lì con un concerto, ovviamente. Vedi che i Ferrario ricorrono? I Ferrario ricorrono dappertutto. Sì, sì. Infatti io ho detto lei perché era l'unico cognome che mi veniva in mente. Vi presento mia cugina. Esatto. Perfetto. Vabbè, e poi ci saranno anche altri due appuntamenti al Bastione Santa Croce a Padova. Sì. Sì. Uno si tratta di una cosa appunto... Allora, questa qui è all'interno di un contenitore organizzato da Artemisia, che è un'associazione appunto culturale di Padova che si occupa di principalmente di arti figurative. Faremo due settimane, in due settimane ci saranno quattro eventi, io parteciperò a due di questi, e uno sarà un concerto appunto, e un altro è una cosa che ho appunto messo in piedi assieme sempre ad Elena Candeo e a Michele Silvestrini, si chiama Estetica del Vento, ed è una cosa di contaminazione dove appunto io suonerò delle canzoni intervallato da dei reading di poeti come per esempio Rilke, ci sono delle cose di Brown, di fantascienza, eccetera, e tutto mentre appunto Elena Candeo dipingerà un quadro, tutto questo viene ripreso e messo in un mega schermo, insomma è una cosa molto interessante, molto particolare, che appunto consiglio. consiglio. Quindi versione Santa Croce a Padova, estetica del vento, sì. Si chiama così, con Davide Ferrario, Elena Candeo, Michele Silvestrini. Esatto. Ricordiamo anche a che ora, non è dato a sapere? Alle 21. Intorno alle 21. Non è scritto? Non è scritto, però vedi, adesso metto io adesso a pennarello sul video. Ecco. Esatto. Benissimo. E poi anche l'appuntamento del 30 di ottobre, sempre al Bastione Santa Croce a Padova, sì. C'è la serata live, diciamo, Davide esatto, Ferrario. Sempre con questo intersecarsi che a me piace molto dei video. Io quando faccio i concerti, compatibilmente con il posto dove vado, sì. Cerco di proiettare dei cortometraggi di animazione che sono realizzati da questo collettivo di videoarte di Roma, che è fondamentalmente un mio amico, si chiamano Oblivious Artifacts. Bene. Cosa molto complicata. Loro hanno realizzato dei corti e io li uso e li proietto durante il concerto, sono sincronizzati sulla musica, quindi essendo comunque in live una sorta di one man show, perché sono da solo, certo. Questo contribuisce comunque ad aumentare, no, il livello di spettacolarità della cosa, che secondo me è molto importante. A proposito del disco, l'autoproduzione, microfono spenti, volevi citare chi ti ha dato sì, una mano? Sì, ci sono un sacco di persone che dovrei citare, perché di fatto questo disco, che è un'autoproduzione, in realtà è diventata una roba di gruppo, cioè ci sono entrati dentro tutti. Insomma, la prima persona che dovrei ringraziare e citare è Chiara Coltro, che è la persona che mi ha dato a Padova il posto dove registrare il disco, ed è lei la presidentessa di Artemisia, che è il posto dove l'ho registrato, la Barbara Codogno, che mi ha dato una mano come ufficio stampa ed è stata veramente bravissima, Silvia, che si è occupata anche lei in parte di promuovere questa cosa, Francesco Bruni e Raffaele Stefani, che sono Raffaele Stefani il fonico e Francesco Bruni quello che ha suonato il basso, e sono le due persone che hanno prodotto con me il disco, Elena Candeo, che ha fatto la copertina e comunque insomma ha bazzicato per lo studio, mi ha dato mano, consigli eccetera, Lorenzo Magon per i video, insomma potremmo andare avanti fino a notte, diciamo che i più importanti credo che ho capito siano stati... c'è una maggioranza femminile in questo caso. Beh, ma è un caso, guarda. Vabbè, allora prima dicevi eri da solo sul palco, sei da sì. solo sul palco a suonare, e qui non sei da solo ma suoni tu. Certo. Cosa possiamo ascoltare sempre dal tuo... Allora, io proseguirei con un pezzo che si chiama Se non so sbagliare, che è la penultima del disco. Benissimo, allora direttamente da Blu Radio Sera, ancora qualche minuto per la buona musica proposta da Davide Ferrario all'interno di Blu Radio Sera, sempre con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Troppi giorni incollati ai nostri sogni, troppe storie, troppe lingue da parlare, troppa luce quando cerco di dormire, troppo alto il volume, troppe voci, troppo peso quando cerco di volare, troppe volte in cui si pensa che un finale ci consoli un po'. Anche oggi ricordami sincerità, se non riesco a piangere prendimi, lasciami cadere poi raccoglimi, gridami ancora che è bellissimo, urlami addosso come fossimo molto più vicini, e quando perdo spiegami che la forza non serve se non so sbagliare. Quando cerco di vedere, troppo grandi e tonde le pupille nere, troppe le parole in aria, troppi sbagli, troppi casi in cui non ho ragione mai, troppi gli animali sulle strade e poi troppi uomini che sanno fare male, incoscienti di ferire. Anche oggi ricordami sincerità, se non riesco a ridere prendimi, fammi il solletico e sgridami, gridami ancora che è bellissimo, urlami addosso come fossimo molto più vicini, e quando perdo spiegami che la forza non serve se non so sbagliare. Ogni stella un filo che scende, ci si appendono alcune speranze, le speranze compongono un uomo, ogni uomo è animato da vita, ogni vita è descritta dai sogni, ogni sogno proietta l'interno, ogni interno è un universo, l'universo è coperto di stelle. Gridami ancora che è bellissimo, urlami addosso come fossimo forse un po' più uguali, e poi insegnami, insegnami che la forza non serve se non so sbagliare. Davide Ferrario, ancora una canzone dal suo ultimo lavoro. Tra le altre cose, proprio andando a vedere il sito di Davide Ferrario, cliccando sulla nota musicale, si arriva su tutta quella che è la musica di Davide, che è possibile da scaricare, appunto, certo. E anche a un prezzo assolutamente, direi, accessibilissimo. Quindi adesso, vabbè, se siete curiosi, andate a vedere appunto il www.davideferrario.com. E per ribadire il discorso della melodia, eccola, è proprio lampante in questo pezzo, viene fuori, si sente, secondo me. Assolutamente, beh, sono molto felice che arrivi questa cosa. E poi la solita grinta, tu hai molta grinta a suonare la chitarra, cioè la percuoti nel senso buono del termine. La tratto male. La tratti male, la tratti male. La tratto male la chitarra, perché vabbè, sai, ho un po' di attitudine punk, anche se non ho mai ascoltato il punk. Ecco, ecco. L'attitudine punk è una cosa positiva, secondo me. Sì, sono molto d'accordo. Poi di fatto io come chitarrista rimango essenzialmente un chitarrista ritmico, anche se... sono comunque un amante di un certo tipo di chitarrista solista, no? Che non c'entra con il Guitar Hero e con queste cose qui, c'entra più appunto con Gilmour, con Johnny Greenwood, con Graham Coxon, con queste cose. Però rimango, ho una matrice ritmica molto forte che mi deriva appunto dal fatto che ho sempre suonato i pezzi così. E la matrice che ti deriva sicuramente anche da band. Dallo sviluppo del suono con la band, poi chiaramente sei arrivato a solista, però la band, certo, ti ha dato una certa propensione. Assolutamente. Ok, bene, allora noi potremmo proseguire anche ad ascoltare magari l'ultimo pezzo disco prima di passare ai saluti. L'ultimo live, però vi farà. Lo vogliamo fare live? Vogliamo fare live? Benissimo, allora visto che vogliamo fare live, stravolgiamo completamente tutto quello. Dobbiamo concludere con live. Live è la cosa più bella per concludere. E live è la cosa più bella. Allora, un altro pezzo live a scelta, sono 12 brani, uno più bello dell'altro. Ne abbiamo ascoltati, ho perso il conto, ma tanti, davvero tanti. Adesso come... con quale pezzo vogliamo concludere? Beh, Davide, non ci sono altre domande, che è la chiusura del disco e anche una frase che è appunto il leitmotiv. Benissimo, vabbè, quindi dopo questa canzone non potremo fare più niente noi, quindi Maurizio, solo affermazioni, poche domande. Esatto, dopo questa canzone. Benissimo, ancora un pezzo di Davide Ferrario, poi torniamo per i saluti. È già sera, è arrivato turno, non ci sono altre domande. Vince il tuo gusto estetico per la notte, come si muove tu lo sai, cambia l'ora e si affaccia al buio, non ci sono altre domande, e si chiude una porta. Perdo un treno che forse sai qual è, tu forse sai qual è, e ad incontrarsi ci si mette qualche istante, ma di conoscerti non smetto mai. Per ogni giorno che inizia un po' distratto, io mi scopro in te. È già sera e mi piace il buio, avrei ancora altre domande circa il tuo saper scegliere nell'inferno delle strade, tu lo sai. E ad incontrarsi ci si mette qualche istante, ma di conoscerti non smetto mai. Per ogni giorno che inizia un po' distratto, io mi scopro in te. In sostanza vorrei solo assomigliarti e lasciarmi più indietro di quanto io possa ricordarmi. Vorrei solo un ricordo confuso da mantenere di me, per mostrare ai miei figli un esempio da non imitare. E ad incontrarsi ci si mette qualche istante, ma di conoscerti non smetto mai. Per ogni giorno che inizia un po' distratto, io mi scopro in te. Assomiglio a te. Qua ci andrebbe uno scroscio di applausi, valanghe di mani che grazie. Battono sinistra sulla destra, tutte insieme. Vabbè, grazie Davide, ci hai fatto veramente un piacere enorme a venire qui a presentare la tua musica. Piacere mio. Veramente, solo parole positive per questo lavoro e mi raccomando, il secondo... Ancora di più. Beh, certo, vabbè, ci mancherebbe, certo. Cioè, sennò indietro. No, certo, io potrei aggiungere, Davide, questo pezzo è la quintessenza del pop. Secondo me questo è il pezzo, come singolo, poteva andare bene questo pezzo. Sì, io lo sento fortissimamente. Questa è proprio la quintessenza del pop. Tu hai detto, è un disco pop tra virgolette a 360 gradi, sì. E questo è un pezzo pop a 360. Abbiamo capito, Maurizio, che io e te abbiamo dei gusti completamente diversi. Io avrei promosso a singolo un altro pezzo, so. Tu hai promosso questo. L'ho sentito questo come singolo. Per cui vuol dire che al pubblico in generale piacerà tutto il disco, sicuramente. Esattamente. Benissimo. Questo ce lo auguriamo. Ecco, sì, senz'altro. Benissimo, allora grazie a Davide Ferrario di essere venuto qui, di averci fatto conoscere la sua musica come prima esperienza solista. E ricordiamo, Maurizio, invece l'appuntamento anche per domani sera per i nostri ascoltatori. Sì, a cui domani piace... sera dalle ore 22 in diretta a Rockwave con la regia di Michele Toson ci sarà Little Gerard Lair, cioè un ex leader dei Rockets. Grandi Rockets direttamente dalla Francia. Verrà a suonare un... parlerà del suo album solista, non so se parlerà dei Rockets, però parlerà della musica di adesso che lui suona. Beh sì, visto che poi c'è stato sul palco con loro, adesso ha i capelli però. Adesso ha i capelli. Mi ricordo che c'era una... andava di moda un po' la testa rasata da quelle parti, soprattutto perché altrimenti la vernice, quella, quella famosa, quella metallica, rovinava un po' anche il capello, per cui era meglio rasarselo a zero. E adesso sto vedendo una foto tratta direttamente dal nostro sito internet. Sì, lo trovo ancora snello, voglio dire, perché invece l'altro era un po' un bufalone, no? Sì, un dire. Po' era un po' tondo, un po' più tondo. Invece questo si presenta bene. Quindi domani sera dalle 22 sempre su Blu Radio Veneto, all'interno dell'appuntamento con Rock Wave, l'onda del rock, appunto ci sarà Little Gerard Lair, bassista dei leggendari Rockets. C'è qualche canzone in particolare? Cos'è? Sexy Woman? Sì, anche quella. Bene, fatela cantare domani sera. Sì, esattamente. Fantastico. Vabbè, allora ancora grazie a Davide. Ringrazio noi... a voi. Ringrazio a voi. E noi andiamo via. Vi lasciamo con dell'ottima musica rock come prossima programmazione serale, sempre all'interno delle frequenze di Blu Radio Veneto. Da parte di Maurizio Calzavare e Flavio Bilato è tutto. Buona serata. Ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto Rock. Rockway, l'onda del rock. Someone